Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Cioè, secondo lei, tra un poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diaretta vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere. Insieme a me non esisto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho. La prima volta termina qui. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a scriverci a laprimavolta@radio24.it, anche per suggerirci storie vostre o di personaggi a voi cari. Potete riascoltarci in podcast a domenica prossima, sempre attorno alle 13. Un saluto da Cristina Carpinelli. Boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole.